Ho messo il toletto, ho messo la 100 510, e quindi devo per forza adesso rifare i buchi e far chiudere la finestra, se no è un casino. È positivo. Sì, va bene. Ma di quel buco con la presa, così almeno siete più tranquillo, poi chiudo la finestra, tanto dovete avere la finestra aperta, se arrivano passata lì, diciamo, un vento che si allaga, mezzo appartamento che si allaga. Ecco perché ho dovuto mettere il cavo, quello suo, e adesso no, non disperde più niente, adesso andiamo alla grande, 10, 15, 20, 40, va bene, no, sto organizzando 100 watt del VHF, e dovrebbe, gli ho mandato le mail ieri, oggi mi ha risposto, ah dai, a Giorgio, vediamo un po', perché sono alle 7004, lì c'è 7004, oltre in banda. Gava, va bene, qua non si sente manco l'anima degli mortacci su, e Massimiliano non c'è, Costanzo non c'è, pure c'è lo Facebook, a vedere se li trovo. Io vado su quelli che ci saranno, senza, questo ci sono i computer. Chi chiama avanti, se c'è la vita ascolta. Non parlo di CPC, non si è buona niente, quello che mi ha dato la GPC tanti anni fa. non si rende conto che va bene solo fare le parabole, mi si limita a fare le parabole, ma lo vendo così 10 euro, quello che è, qualche cosa recupera. Vabbè, chi non usa grandi potenze attorno a me, io stavo rimanendo indietro anche per la perdita di cavo sulle V e sulle VHF, capito? Stavo rimanendo indietro, quindi l'ho dovuta fare poi la spesa maggiore e ricomprare le valvole dell'amplificatore grosso. E ci sono altri 250 euro di valvole, capito? E quindi insomma ho speso un po' di soldini, dai. Però per non rimanere indietro purtroppo bisogna fare così, ma non tanto alla 27, non mi interessa un cazzo, almeno io arrivo da tutte le parti. E per quanto riguarda gli HF, le V e le U, la famiglia sta diventando più grande, adesso c'è anche Sandro, Fabrizio c'è già la patente, settimana c'è il nominativo, quindi adesso iniziamo un po' a camellare in HF, capito? Se non facevo questi lavori rimanevo indietro. E allora li ho dovuti fare per forza, ma la fa culo di dire anche a te me la futti. Ah, niente, poi ho rotto le robe della direttiva 920, quella per le V, quello è già sopra. Ieri stavo girando a tutto girare, che stavo divertendo. Alla fine mi si è pure ingrigliolata, Antonio, non ho più compreso un cazzo, con il control box mi si è tutta ingrigliolata. Sì, non modo scappare. Se non fai le... se non ti cavo bene per non migliorarsi, se ti trovi incappettato. Ma io non ce l'ho direttiva del comune, c'è il motore della direttiva della parabola, va bene quella per il momento. Già ci può anche modificare. E va poi voglio dire, ci sono due cosi piccolini che bloccano la fila e corsa. Quindi se li rimuovo quelli il motore gira da una parte all'altra, fa tutto, fa 360 gradi tutto intero. Però non è proprio bene così, non è che modifico, lasciato intero. E ho un motore per me, per parabola, a 24 volts, non è perfetto, funziona bene, ne avevo regalato due, uno l'avevo regalato io, uno l'altro l'avevo tenuto io. Poi ho detto dei motori li avevo fatti 5-6, ci avevo buttati cosa, prospero. Salutando con la mano, io faccio quello piccolino della Stoller, tanto serve solo per far girare la direttiva, capito? Poi punta la direttiva, è bassa e non è molto alta, è all'angolo e va benissimo, tanto sono in alto. E punta la direttiva c'è un X50 che mi serve per monitor delle V e delle U, poi la 510 è quella che scoppietta, quella l'ho tirata su altre 6 metri e basta, e la direttiva poi col 271, quello base, adesso arriva al 7004, sposto tutto sul 7004 e boh, è un movimento me. E anche per quest'anno abbiamo dato attenzione modulatori su chiattoni di uccelli dell'Alta Italia, ascoltate lo sparviero senza ali, cambio! Meme. Attenzione su chiattoni dell'Alta Italia, ascoltate lo sparviero senza le ali, cambio! Tutto grande spogliatore, vai a tornare subito, non mi guardi nada. Se parliamo inglese, no, speak English in Italia, no, speak English. Passo. sensualità lì, no? Ma c'è più tedesco, attento, Coca-Cola, Italia chiama Coca-Cola. Va bene, vedo i binocchi. voi. Positivo, Angelo Plasiano, io tu sono. Ma esce una critica, minchia. Senza la pianificatore, quanto arriva a te? Se tu sei un dio. Te lo dico subito. In provincia Rovigo. 9:10, senza pianificatore. Minchia, però venire 9:20 con picchi positivi. Allora c'è ragazzi. Va bene, sono qua Antone, dai, sono qua. Dammi il tempo di fare queste cose qui già. Sono qua, comunque non ti preoccupare. Non sei abbandonato, non sei abbandonato. Cambio e passo, compro, vendo. Angelo, se tu mi senti. Gaba, non c'è problema.